Benvenuti al secondo episodio di questo podcast. L'episodio di oggi verterà intorno al termine statista ed è in questo senso direttamente collegato al precedente episodio. Idealmente sono un unico episodio, quindi questo ne è il seguito. La ragione per la quale ho scelto di parlare del termine statista è che vi è un po' di confusione e credo che generalmente la definizione utilizzata nei dizionari non sia corretta, anzi lo posso dire tranquillamente, è errata. E vado addirittura a citare la definizione che viene data dall'Enciclopedia Treccani. Nel vocabolario online della treccani.it leggiamo: uomo, donna di stato, persona che ha una profonda esperienza teorica e pratica dell'arte di governare uno stato. A parte il fastidio che provo per il fatto che si possa accostare il termine governare con quello di arte, è una cosa che viene fatta spesso, si sente parlare spesso di arte della guerra o arte di governare. Tuttavia credo che anche in questo caso ci sia un errore di base, perché l'arte denota in qualche modo un canone estetico e una risposta emotiva da parte di colui il quale fruisce di un'opera d'arte, per esempio. E non credo che si possa dire la stessa cosa né della guerra né del governo. In ogni caso, andrò a spiegarvi che in modo abbastanza semplice, suppongo, e chiaro, per quale motivo questa definizione è errata. Diciamo che, in termini più generali, questa definizione intende una sottocategoria all'interno di un insieme più ampio e non dà una vera definizione del termine statista. Una definizione più corretta è quella che viene data dalla enciclopedia online Wikipedia, che dice: il termine statista deriva da stato e indica colui il quale è un sostenitore dello statismo. Comunque andiamo un attimo per gradi. La prima volta che io sentii parlare del termine statista fu quando stavo a scuola, mi ricordo alle superiori, si parlava di Repubblica, uomini politici, e si parlò in particolare, se non ricordo male, di De Gasperi, al che qualcuno nella classe utilizzò il termine statista per definire De Gasperi. Lì per lì pensai il termine avesse a che fare con la statistica, però ovviamente le due cose non c'entravano molto l'una con l'altra. Fu solamente molto tempo dopo che capii che il termine statista veniva comunemente, o viene tuttora comunemente, utilizzato per indicare un personaggio politico, così come l'enciclopedia Treccani nel dizionario online ci ha svelato. Ora, come ho detto precedentemente, il termine statista è stato storpiato per indicare una sottocategoria all'interno di un sistema più ampio, e per spiegare questo utilizzerò un esempio calcistico molto semplice. Si è soliti riferirsi al tifoso della Roma con il termine, per Roma intendo la AS Roma, la squadra di calcio, con il termine romanista. Ora, se ci fosse una sola squadra di calcio nel campionato e quella squadra fosse la AS Roma, sarebbe abbastanza plausibile equiparare il termine tifoso di calcio con la parola romanista. Questo è quanto succede con il termine statista, lì dove equipariamo il termine romanista, ovvero statista, con il termine politico, quindi tifoso di calcio. Perché statista, come abbiamo letto nella definizione di Wikipedia, è colui il quale sostiene lo Stato. Quindi la domanda che sorge spontanea è: esiste qualcuno che non sostiene lo Stato? E la risposta è sì, perché da un lato esiste lo statista e dall'altro esiste l'anarchico. Ovvero, il termine anarchico si compone di anarchico, anarchon, che sta a significare colui il quale si oppone a qualunque forma di governo. Per comprendere un po' meglio questa differenza, dobbiamo andare a cercare di capire che cos'è uno Stato. Una delle definizioni maggiormente usate è quella di Max Weber, che lo descrive come un'organizzazione politica imposta, e qui devo aprire una piccola parentesi per dirvi che mai nessuno Stato è stato, scusate il giro di parole, adottato democraticamente o volontariamente, ma è sempre stato imposto con la forza. Chiudo la parentesi e ricomincio. Un'organizzazione politica imposta, con un governo centralizzato, che mantiene il monopolio dell'uso della forza in un determinato territorio. Ne evinciamo quindi tre aspetti fondamentali di uno Stato: l'imposizione attraverso l'uso della forza, la centralizzazione del potere e la delimitazione territoriale. Di solito l'uso della forza avviene tramite le cosiddette forze dell'ordine, laddove per ordine si intende l'ordine costituito dallo Stato, mentre la centralizzazione del potere avviene tramite il governo. Tuttavia spesso si parla dei tre poteri dello Stato: quello legislativo, esecutivo e giudiziario. Lo Stato fa le leggi, che implementa con la forza, e vigila e condanna chi non le rispetta. Tuttavia, se voi foste in un tribunale accusati di un qualunque reato, Avreste un giudice che è pagato dallo Stato, un pubblico ministero che è pagato dallo Stato, le forze di polizia che vi hanno in qualche modo portato davanti al giudice e anche se sono pagate dallo Stato. Nonostante l'idea di Stato sia abbastanza antica, quindi non è una nuova invenzione, gli stati moderni trovano la loro base ideologica nel collettivismo e anche il collettivismo non è un'invenzione recente. Il collettivismo, come abbiamo visto nel precedente episodio, indica una visione morale, filosofica, politica, etica e o sociale che mette la collettività, e quindi il gruppo, al di sopra dell'individuo. In altre parole, secondo i collettivisti, il modo di raggiungere una società prospera è quella di sacrificare la libertà degli individui a favore del collettivo, ovvero della massa. L'idea di collettivismo trova la sua giustificazione nell'idea di natura umana. Esistono diverse idee di natura umana, ma quella alla quale il collettivismo fa riferimento è quella che poggia in qualche modo sul darwinismo, in particolare al cosiddetto determinismo biologico o determinismo genetico, secondo il quale i geni e quindi il nostro DNA sono responsabili per il nostro carattere e comportamento. Per spiegare questo punto basti pensare a quante volte leggete sui giornali dei titoli come questo: trovato il gene responsabile per l'obesità, trovato il gene responsabile per il fumo, trovato il gene per la sindrome da bla bla bla. Tutte le volte che i giornali parlano di trovato il gene, quello che vogliono dire è che c'è una connessione uno a uno, abbastanza stretta e diretta, tra un gene, quindi un particolare codice del vostro DNA, e un comportamento, il che in altre parole significa che i comportamenti, il carattere, il temperamento di una persona sono in buona parte determinati da il proprio DNA. Ovviamente la conseguenza di questo è che una persona viene depauperata dalla possibilità di fare delle scelte, e quindi se sei obeso non è colpa tua, non sei tu che mangi troppo, sono i tuoi geni. Se fumi non sei tu che hai una dipendenza dal fumo ed è quello il modo che tu hai trovato, la tua strategia di coping per, diciamo, combattere l'ansia. No, è un tuo gene, e quindi l'uomo viene deprivato della propria libertà e capacità di fare delle scelte perché sono i geni responsabili del proprio comportamento. Ovviamente non c'è nulla di più ridicolo, fortunatamente nel XXI secolo possiamo fare questa affermazione, un tempo non avremmo potuto, e lo possiamo fare grazie al fatto che la scienza ci viene in aiuto. Nell'ultimo ventennio infatti si è sviluppata una branca della biologia che si chiama epigenetica, che significa al di sopra della genetica, e che studia gli effetti del rapporto tra geni e ambiente. In qualche modo studia come l'ambiente sia responsabile per i cambiamenti che avvengono a livello di espressione dei geni. Nonostante le origini dell'epigenetica si possano già trovare in Aristotele, il termine da attribuire al biologo Conrad Waddington, che è vissuto nello scorso secolo, è morto nel 1975, quindi non parliamo, diciamo, di un tempo molto lontano. Un esempio di studio epigenetico è quello di Wallet del 2002. Che ha indagato l'incidenza della ereditarietà nel caso di bambini adottati, ovvero ha cercato di capire qual è l'incidenza di fattori non legati ai geni nel perpetrare quelle malattie normalmente definite genetiche, laddove quindi non esiste un legame di sangue o genetico. In particolare, questa ricerca ha dimostrato come i bambini adottati in famiglie dove vi sono casi di cancro esprimono la malattia con la stessa propensione dei figli naturali. Non c'è necessità di spiegare oltre, diciamo, di andare oltre in dettaglio di questa ricerca. Ciò che la ricerca ha dimostrato è che bambini adottati in una famiglia in cui si esprimeva una determinata malattia, che in questo caso era il cancro, esprimono la malattia come i figli naturali. Cosa che avrebbe potuto farci pensare, se non avessimo fatto la ricerca, che il cancro, quel determinato tipo di cancro, avevano una base genetica. Comunque, torniamo indietro e chiudiamo la parentesi riguardo alla natura umana e ai geni. Se accettiamo erroneamente che gli esseri umani hanno una loro natura e che questa natura determina il loro comportamento, il loro carattere, eccetera, eccetera, e che quindi questa natura determina anche gli aspetti negativi dell'essere umano, no? Quando si parla spesso della natura umana, no? Nel caso in cui ci sono omicidi, stupri o cose del genere, si parla di natura umana come se l'uomo fosse cattivo perché ha dei comportamenti istintivi genetici, L'uomo non ha istinti. Gli unici istinti che l'uomo ha sono veramente di basso livello. Sbadigliare, per esempio, è un istinto. Ma non ci sono comportamenti complessi che si possono attribuire agli istinti, proprio perché non c'è una natura umana. Quindi, se accettiamo che gli esseri umani hanno una loro natura e che questa natura è cattiva, allora dobbiamo trovare un modo per proteggere gli uomini stessi dalla propria natura. E quale modo migliore per fare questo se non quello di sottomettersi a una forma di autorità centralizzata che ha il monopolio della forza, ovvero lo Stato? Ora esistono almeno due motivi per i quali è ovvio che il collettivismo e lo Stato non possono rispondere adeguatamente a questa esigenza. La prima è che lo Stato è di per sé figlio di una fallacia, ovvero di una incongruenza logica, che è questa. Se tutti siamo uguali, e tutti siamo uguali, e se è sbagliato iniziare un'azione di forza, ed è sbagliato iniziare un'azione di forza, con questo non voglio dire che è sbagliato rispondere a un'aggressione con l'aggressione, dico che è sbagliato aggredire per primi, quindi rubare, prendere qualcosa di qualcuno, limitare la libertà di qualcuno. Quindi, se siamo tutti uguali, e siamo tutti uguali, e se è sbagliato iniziare un'azione di forza contro qualcuno, come può dunque lo Stato essere esonerato da questa regola? Come può lo Stato iniziare un'azione di forza attraverso le forze di polizia? Come può lo Stato proteggere il vivere civile sovvertendo le regole stesse che cerca di proteggere? Ovviamente questo non ha senso. Il secondo motivo è che se bisogna difendere l'uomo dall'uomo stesso, allora concentrare il potere nelle mani di pochi uomini non è una buona idea, casomai il contrario. Meno uomini hanno il potere, meno potere è concentrato nelle mani di alcuni uomini e minore sarà la possibilità che queste persone abusino del loro potere. Invece che cosa facciamo noi? 60 milioni di abitanti concentrano il potere in un migliaio di persone e pretendiamo che questo ci porti a un vivere civile e ordinato. Qualcuno ha detto: il potere corrompe, molto potere corrompe molto. Sotto l'ombrello del collettivismo troviamo tutti i moderni sistemi di governo, quindi il fascismo, il nazismo, il comunismo, il socialismo, la democrazia e quant'altro. Insomma, non me ne vengono altri in mente. In altre parole, quando uno si definisce comunista e un altro fascista, essi non sono due estremi. Essi sono semplicemente due sottocategorie all'interno della più ampia categoria collettivista. In altre parole, la stessa differenza che c'è tra un tifoso della Juve e uno del Milan c'è tra un comunista e un fascista o un democratico. Essi appartengono allo stesso insieme. Quando dico democratico intendo democrazia costituzionale, per esempio, perché un socialista probabilmente ritiene di essere un democratico. Ma quando due componenti che appartengono allo stesso insieme vengono rappresentate come due alternative, in realtà non lo sono. Le persone che votano a destra e sinistra si sentono in qualche modo essere due opposti. Lo sono solamente all'interno di un contenitore più piccolo, ma all'interno di un contenitore più grande, che è quello del collettivismo, non sono affatto due opposti. Ora voglio concludere citando Ayn Rand, che è una filosofa o un filosofo, non so come si dice, probabilmente la più grande filosofa o filosofo dello scorso secolo, che ha in qualche modo rispolverato l'oggettivismo che aveva iniziato Aristotele, ovviamente in modo molto più consistente, e quindi andrò a leggere cosa Ayn Rand pensa di uno statista. Uno statista è un uomo che crede che alcuni hanno il diritto di forzare, coercere, schiavizzare, rubare e uccidere altri. Per metterla in pratica, questa convinzione deve essere attuata attraverso la dottrina politica che il governo, lo Stato, ha il diritto di iniziare l'uso della forza fisica contro i suoi cittadini. Quante volte la forza deve essere usata, contro chi, fino a che punto, per quale motivo e per il beneficio di chi sono domande irrilevanti. Il principio di base e il risultato finale di tutte le dottrine statiste sono gli stessi: dittatura e distruzione. Il resto è solo una questione di tempo. Statismo, di fatto e in principio, è niente più che il governo di una gang, di una banda. Una dittatura è una banda dedicata a saccheggiare gli sforzi produttivi dei cittadini del proprio paese. Quando il governo statista esaurisce l'economia del proprio paese, attacca gli stati vicini. È solo una questione di posporre il collasso interno prolungando il proprio governo. Una nazione che viola i diritti dei propri cittadini non rispetterà i diritti dei suoi vicini di casa. coloro i quali non riconoscono diritti individuali non riconosceranno i diritti di una nazione. Una nazione è solo un numero di individui. Lo statismo ha bisogno di guerre, un paese libero no. Lo statismo sopravvive saccheggiando, un paese libero sopravvive producendo. Il maggior numero di guerre nella storia sono iniziate da economie più controllate nel loro tempo contro quelle più libere. Per esempio, la prima guerra mondiale è iniziata dalla Germania monarchica e la Russia zarista, che hanno trascinato i loro alleati più liberi. La seconda guerra mondiale è stata iniziata dall'alleanza tra la Germania nazista e la Russia sovietica, nel loro comune attacco contro la Polonia. Potrei andare avanti, ma credo di aver reso il concetto comprensibile. E credo che le parole di Ayn Rand siano state quantomeno molto più chiare e illuminanti delle mie. Ora vorrei farvi un altro esempio che riprendo un po' dal precedente podcast, che è quello che ha a che fare con la tassa di proprietà. Questo per dimostrarvi come non solo non siamo liberi, ma siamo appunto schiavizzati da una gang, da una banda, come la definisce Ayn Rand. E questa banda, diciamo oggigiorno, viene chiamata la casta. L'articolo 42 della nostra Costituzione recita, e guardate in qualche modo come l'articolo 42 della Costituzione trasudi collettivismo: la proprietà è pubblica o privata. Ovvero, prima la proprietà è pubblica e poi è privata, continuo. I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati. Ancora una volta, i beni economici prima appartengono allo Stato, poi a enti e infine a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Guardate come termina, renderla accessibile a tutti, quando in realtà quello che lo Stato fa è... Allora, questo articolo comincia dicendo che la proprietà privata è riconosciuta ed è garantita dalla legge, che però ne determina i modi di acquisto, cioè il modo in cui la proprietà viene acquistata e venduta è attraverso, è stabilito dalla legge. Il godimento, quindi come voi vi godete la vostra proprietà, se è vostra, lo Stato non può dirvi come ve la godete, ma lo Stato ve lo dice. E i limiti? Ovviamente ci sono dei limiti. A quale scopo mettere dei limiti? Quelli di assicurarne la funzione sociale. Vedete come trasuda il collettivismo? Questo significa che ogni cosa che è scritta è a vantaggio del numero, della massa, ma non dell'individuo. Ma quando si parla di diritti, si parla dei diritti dell'individuo. Quindi se non è l'individuo, non è la massa. Continuo. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme. Ora guardate questa frase. La legge stabilisce le norme. Lì dove legge e norme in realtà sono sinonimi. Quindi la legge è come un'entità. La legge stabilisce le norme. Questa cosa non ha senso. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima. Quindi la legittima successione, ovvero la successione che ha valore legale, è stabilita dalla legge attraverso le norme. È un cane che si morde la coda. Comunque, ricomincio, la legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Ancora una volta, la Costituzione ha messo lì questa particella per dire i diritti dello Stato sulle eredità. Ovvero, quando c'è un'eredità, lo Stato ha dei diritti. È incredibile. Questo articolo, che dovrebbe sancire il diritto di proprietà, sta sancendo il diritto dello Stato sull'ereditarietà. È incredibile. Quindi sulla carta sembrerebbe che i cittadini italiani hanno il diritto alla loro proprietà e che questo diritto è sancito. Ma sappiamo in realtà che non è così per i motivi che abbiamo appena visto. Quindi se con il frutto del duro lavoro e se dopo un lungo mutuo siete finalmente riusciti a comprarvi la casa, avete l'illusione che nessuno ve la può togliere. Tuttavia non è proprio esattamente così, perché dal momento in cui dovete pagare le tasse, che potremmo definire pizzo, e che in particolare dovete pagare le tasse sulla proprietà, questo significa che se non avete i soldi per pagare il pizzo, lo Stato si rifà sulla vostra proprietà, quindi sulla proprietà stessa. In altre parole, non esiste un diritto di proprietà in Italia, esiste un canone, esiste un affitto. Concludo questo podcast dicendo che lo statista non è un personaggio politico, quella non è una definizione corretta. Ricordate l'esempio del romanista? Lo statista è colui il quale ritiene che una minoranza debba controllare e governare una maggioranza attraverso l'istituzione di uno Stato e quindi l'uso della forza e la centralizzazione del potere. Io non sono uno statista. Voi?